Ah boh, dunque, cosa succede? Vabbè, la Paolo Grassi è una scuola di teatro, no? Che è molto importante, una scuola che c'è da più di 50 anni, fondata da Paolo Grassi, fondata su tutta la pedagogia teatrale, ogni volta quella più avanzata e più di ricerca. Quindi ha una struttura didattica molto speciale, nel senso che ha sei corsi che sono recitazione, regia, drammaturgia, tecnici, scenotecnici del palcoscenico e operatori dello spettacolo. Questi corsi insieme da soli fanno i mestieri del teatro, cioè tutte queste persone uscite dalla Grassi anno dopo anno possono potenzialmente mettere insieme una compagnia ed essere completamente autosufficienti, no? Questa è la teoria. E per fare questo c'è un monte ore per ogni corso e quindi ci sono delle caselline che vanno riempite di didattica e pedagogia, no? Che sono competenziali proprio, cioè voce, movimento, gestione dello spazio per gli attori, c'è luci, tecniche foniche per gli scenotecnici, c'è management della cultura, diritto privato per gli operatori. E queste sono delle caselline. La cosa che però ha sempre reso speciale a Paolo Grassi è il fatto che questa didattica fosse inserita in un contesto teatrale nazionale e internazionale e quindi che fosse piena di stage con grandissime personalità dello spettacolo, che fosse, ci fosse la possibilità di spettacoli prodotti dalla scuola di andare in tournée in altri posti, che ci fossero relazioni e scambi continui sia tra i corsi che tra la scuola e l'esterno. Tutta questa concezione gestionale era molto bene integrata nella visione didattica del direttore Maurizio Schmidt, che si è appoggiato nel suo progetto didattico a questo ufficio innovazione e sviluppo, capitanato da questa Mimma Gallina, che è la più grande organizzatrice del teatro italiano, un tipo veramente durissimo. Insomma, tutta questa cosa qua porta al fatto che in questa fondazione a cui fa capo la Paolo Grassi, che è la Fondazione del Politecnico delle Arti e della Cultura Civiche Milanesi, questa struttura di risultasse pesante, perché vuol dire che tu hai un tot soldi che ti arrivano dalla fondazione per fare le ore di didattica normale. Per realizzare però tutti questi progetti che ti ho spiegato adesso servono degli altri soldi. E allora questo Maurizio Schmidt si è dotato di questo ufficio innovazione e sviluppo che autofinanziasse i progetti della scuola. Cioè un ufficio che ragiona proprio a livello manageriale come ragiona un teatro. Boh, voglio fare questa produzione, chiedo una sponsorizzazione al Centro Culturale Francese perché lavoro sulla Francia. E quindi riesci a far venire il tal regista da Parigi, che viene in Italia, fa uno stage di 6 mesi con i ragazzi, mette in piedi una produzione che poi gira tra Milano e la Francia. E tutto questo progetto, che è didatticamente potentissimo e formativamente fondamentale per i ragazzi, viene finanziato da qualcuno di esterno alla fondazione, esterno al comune. E la scuola comincia così a sganciarsi dal finanziamento pubblico. Ok? Questo giro di soldi mette la fondazione in una condizione difficile, perché tu devi gestire i soldi che dai tu, fondazione, alla scuola, e i soldi che la scuola stessa trova, che devono passare da te e da te scendere di nuovo ai ragazzi. Ok? Bene. Amministrativamente i tempi dei finanziamenti pubblici sono molto difficili. È molto complesso renderli sincroni. Quindi a un certo punto, durante l'amministrazione di Schmidt, che è il nostro direttore che è stato rimosso questo luglio, questi tempi si sono un po' accavallati, quindi ci sono state delle magagne tra soldi che venivano da altri portatori di interesse e dalla fondazione. E quindi c'è stata questa accusa di mala amministrazione, falsa e menzognera totalmente, guardando i bilanci. Per cui a un certo punto, visto che il carico di lavoro che gravava sugli amministrativi e burocrati della fondazione a causa di questa gestione innovativa di autofinanziamento della scuola negli ultimi 2 anni era troppo pesante, a questo punto hanno pensato bene a luglio di rimuovere il nostro direttore e di aprire un bando, aprendo il bando alla candidatura a chiunque. Quindi noi ci siamo trovati in una situazione di non avere un programma didattico per l'anno dopo, di non poter portare avanti tutti i progetti iniziati l'anno prima, di essere palesemente presi per il culo perché quello che veniva accusato di cattiva amministrazione era semplicemente una persona che cercava di portare la scuola in una direzione molto positiva e molto innovativa e veniva troncato solo per, secondo me, a mio piccolo avviso, problemi di proprio l'italiana pigrizia di non voler gestire una cosa nuova e bella. E quindi ci siamo mobilitati e abbiamo cominciato a far uscire comunicati stampa che spiegassero bene la situazione. abbiamo cominciato a parlare tra noi studenti di come poter affrontare queste cose, e a questo punto da settembre, i primi di settembre, ci siamo messi in testa che forse, visto che tutti i comunicati stampa e tutte quante le azioni di comunicazione fatte nel mese di agosto avevano portato alla quasi totale appoggio di tutto il mondo culturale italiano alla questione, cioè i nostri comunicati li ho affermati, tipo il primo di tutti è stato Escobar, che è il direttore del Piccolo Teatro, Monio Varia, Dario Fo, Lella Costa, Elio De Capitani dell'Elfo e chi più ne ha più ne metta. Proprio tutti hanno firmato l'appello e si sono detti disposti a fare qualcosa per la causa. Abbiamo organizzato questo Festival delle Preoccupazioni. Ed è stato un festival di 2 settimane che in 2 settimane ha visto passare dalla Paolo Grassi come teatro aperto veramente tutti quanti sono passati, hanno parlato, hanno discusso il modo di fare cultura nella città, modi di fare cultura all'estero, cosa non funziona, cosa invece funziona, eccetera eccetera. E tutta questa questione ha messo sotto pressione le istituzioni, e visto che la Fondazione delle Scuole Civiche fa capo al Comune di Milano, noi abbiamo pensato prima di aggirare il problema Fondazione Scuole Civiche e fare un discorso di pubblico, far vedere che la nostra è una istituzione brutta, perché non costa niente mantenere la Paolo Grassi agli standard di qualità a cui si manteneva da sola, per di più. È proprio una questione di privizia e mafiosetti, acine, schifosa. Non costa niente e serve che esista in questo modo, e fa bene a tutti, non si capisce perché bisogna prendersela con un'isola felice che per di più si autofinanzia. E tutto questo discorso è tramutato appunto in un festival da una parte, in una continua comunicazione dall'altra, fino ad arrivare a ieri 21 di settembre, e c'era il primo consiglio di amministrazione del nuovo consiglio di amministrazione della fondazione, perché naturalmente quello vecchio ha fatto il danno e poi se ne sono belli andati, no? E li hanno cambiati tutti tranne uno, Sarubi, il più cattivo di tutti. E questo nuovo consiglio di amministrazione in realtà è capitanato da questo Paolucci, che è il presidente di Microsoft Italia, uno con le palle, insomma, che a mio avviso persona molto intelligente, si è dimostrato molto aperto nei nostri confronti, ci ha accolto, ha detto: ah, io effettivamente in teatro non capisco un cazzo, devo eleggere un nuovo direttore, però non so nulla di come funziona la vostra scuola, quindi io leggerò il progetto di candidatura, e però per me sono un po' tutti uguali, ecco, giustamente, che è il presidente di Microsoft Italia teatro, cazzo c'è zecca. E via così, quindi questa situazione di fondazione. Contemporaneamente invece siamo stati presi sotto l'ala molto democratica di Maiorino, che ha portato un'istanza nostra al primo consiglio comunale, che è stato ieri, in teoria era giovedì, ma è stato rinviato per i morti in Afghanistan, eccetera. E anche dal punto di vista comunale c'è stato un totale appoggio della causa, e si porterà questa nuova istanza in comune, e poi si pensa in fondazione, dicendo che un bando così messo è poco trasparente, un licenziamento a luglio non permette effettivamente alla didattica di avere il suo corso, non si dà il giusto peso alle specificità proprio gestionali della scuola, e che quindi bisogna mettersi a ripensare la situazione. Noi studenti in tutto questo non abbiamo un direttore tuttora, abbiamo un direttore ad interim, che tra l'altro è uno dei direttori che sta partecipando al bando, ma è un scendiletto peloso della fondazione, che si occupa di firmare dei contratti, però poi non sarà lui a gestire, perché se non vince lui il bando non si capisce perché, e che sta facendo un progetto didattico completamente a caso, visto che i docenti non sono assolutamente dalla sua parte, e quindi noi, per dire, io corso organizzazione ho un coordinatore di corso e basta, non ho neanche un docente, e inizio in teoria il mio anno accademico, l'ho già iniziato. E via dicendo, per dire, gli attori dei secondi e terzi anni non hanno progetti su cui lavorare, non li avranno fino a che non ci sarà questo nuovo direttore, però come si fa a immaginare che un direttore che anche venga messo in carica tra 2 settimane, nel giro di 2 giorni riesca a far diventare attiva una scuola? L'unica possibilità è che questo nostro vecchio direttore, che già aveva un piano didattico, rimanga per quest'anno e poi si vada avanti cercando di capire che forse le esigenze di una scuola di teatro sono un po' più diverse da quelle di una... La scuola di teatro come la Paolo Grassi è diversa da un CTA, voglio dire, le vostre proposte? A livello gestionale? Sì, cioè se avete anche voi detto, secondo noi parlandone una buona soluzione sarebbe fare così, far cos'ha questa persona piuttosto che questo metodo, sì, nostra... piuttosto che ci andava bene come era prima, perché non vi facciamo... La nostra proposta sin dall'inizio è che rimanga Schmidt, che è il direttore che è stato licenziato, fino alla chiusura di questo anno accademico, perché il suo progetto didattico per il quale era stato eletto era triennale ed è stato interrotto al secondo anno. Quindi per, cioè per forza di cose tutti i contratti con i docenti legati a lui vengono interrotti così, brutalmente. E anche tutti i progetti didattici sui ragazzi, essendo i corsi prevalentemente triennali, sono stati interrotti. Quindi tutta la gente dovrebbe finire questa cosa, non ha un cazzo da fare adesso. E quindi la nostra proposta è appunto che rimanga un direttore che aveva già un progetto didattico, teatrale soprattutto e non aziendale, sulla scuola per quest'anno, che ci sia un affiancamento possibile, anche messo a bando, va bene, ma che sia sulle competenze e non sul favoritismo politico o sul... Non ci sono persone che ne sanno di teatro che hanno partecipato a questo bando, cioè nessuno fa teatro, solo Schmidt, e noi siamo una scuola di teatro. Quindi, cioè, se volevamo andare a fare cinema con Al Pacino dovevamo andare a Civica di Cinema e via dicendo. Quindi la nostra unica possibilità è che rimanga Schmidt fino alla fine di questo anno qui, ci sia un affiancamento, una possibile discussione dei programmi, una possibile garanzia di continuità, e che poi si vada avanti come si è sempre fatto, con pochissimi soldi e gran guardare al di fuori dei confini dell'Italia, come è stato possibile fino adesso grazie al lavoro di Mimma Gallina, di questo ufficio innovazione che è stato proprio collegato alla direzione Schmidt. Questa è l'unica possibilità di mantenere una qualità alta. Poi boh, naturalmente è un discorso di qualità, cioè adesso siamo in Italia, quindi cioè, e fa anche ridere avere a che fare con tutto il resto e andare a difendere delle posizioni di altissima qualità e prestigio, perché effettivamente le hanno distrutte tutte, perché hanno una cosa che sì, per ultimo. Boh. Il punto è che costa veramente poco ed è veramente una forma di cattiveria e mala gestione proprio delle persone. Più ci stiamo dentro più capiamo che sono in ballo interessi proprio di orgoglio personale, di piccoli personaggi, piccole macchiette proprio di potere che sono, cioè parliamo di 3.000 euro, tutto questo che abbiamo qua è saltato fuori per 3.000 euro di buco, cioè non è un cazzo. È solo che noi paghiamo una retta, ci aspettiamo delle cose e non arriva e via dicendo.